Convocati di Carlo Genta. Italia si grida sulle tribune per accompagnare questo nuovo ritrovato possesso palla. È Federica Radicchi che impazzisce con il pallone in mano e impazziamo appresso a loro, appresso a queste ragazze che hanno raggiunto la finale olimpica dopo 12 anni, dopo Atene 2004, è per il 7 rosa. Sbaglia la battuta. Eccoci qua. Vince l'Italia, vince 3-0 per la sesta Olimpiade consecutiva. L'Italia è in semifinale, il che significa nobiltà e tradizione pallavolistica. Beh, insomma, copertina olimpica dopo in questi giorni e in questa prima parte dei nostri appuntamenti sportivi, perché la seconda dedicata interamente alle Olimpiadi. Dalle 18 alle 20, tutti convocati alle Olimpiadi, avremo modo di parlare in maniera diffusa di quanto abbiamo visto, quindi di un 7 rose in finale, di una pallavolo che supera il turno con l'Iran, ammazza quanto tiravano forte. Il primo set è stato davvero equilibrato, poi ci siamo sciolti, però dato che siamo multitasking, non ci sono solo le Olimpiadi, poi ci collegheremo anche con Rio perché c'è una finale che ci attende nelle acque della canoa. Ieri c'è stata, signori, anche la Roma in un preliminare di Champions League, fondamentale per mille motivi. Tanti uomini dalle parti di Casilla, Socchi alla battuta in mezzo, deviazione, autogol 1-0 Roma, autogol clamoroso su un cross che sembrava innocuo, anche se avevamo sottolineato il tanto movimento dei giocatori della Roma dalle parti di Casilla. Da Ottavio sul punto di battuta, il colpo di testa, la deviazione da parte di Emerson, le proteste adesso sono del Porto, calcio di rigore. Parte con il destro, 1-1. Il pareggio del Porto e l'esplosione del Dragão. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Sono molto contento della prestazione dei miei calciatori, era quella prima ufficiale, vederli poi in campo in generale è stato un piacere. Ci abbiamo forzato delle situazioni che una squadra esperta come la nostra non può fare. Perso dei palloni e subito poi dei cartellini che ci hanno messo in difficoltà durante la gara che potevamo evitare. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Luca Telese, che piacere trovarti dopo un po' di tempo. Ciao, buongiorno. Come stai, amico mio? Non mi convocavate, sono qui. No, amico mio, non fare così. Sei d'accordo con... No, ma è solo per farvi sentire in colpa, perché oggi sono d'accordo con voi. Già la vostra scelta musicale subliminale, persuasiva e accattivante è colpa Letti. Ma Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma fai 40 minuti così... Poi arriva di nuovo la catastrofe di Dzeko, qualcuno me lo deve spiegare, perché poi il tifoso romanista e bonario si accuccia, si adegua e dice beh, ma in fondo che ha fatto, ha sbagliato un gol. Non lo puoi sbagliare, la Champions, che non puoi sbagliare un gol a porta vuota. Dai, hai trovato già Monsieur Malossen, il capro espiatorio per ogni male giallo-rosso. No, dai. È il punto di scaturigine della paura che ha preso, come dite voi, Mr. Hyde nel secondo tempo, quella paura di sbagliare passaggi elementari, sbagliare rinvii, di soffrire, di quel secondo tempo della Roma che è stato senza nessun motivo veramente un calvario. Sì, senza nessun motivo. Ci vuole Borriello. Ma come Borriello? Che te ne fai di Borriello? 4 gol alla spalla, destro, sì, però, sinistro, Luca, testa. Luca, io Luca, ho sempre detto che un buon mestierante italiano vale 100 cazzoni internazionali strapagati della cippa. 4 milioni e mezzo per uno che la butta fuori a porta vuota. Signore e signori, Luca Telese, 800 24 00 24 è il numero verde. Rimango convinto del fatto che i tifosi giallorossi come te abbiano trovato Monsieur Malossen. Intanto io sono abbonato della Roma, ma tifoso del Cagliari, però veramente non si può, ma come si può pagare 4 milioni? Tu puoi sbagliare quel gol, tu ed io forse. al calcetto qui ad Alghero, capito? Sì. Non, ma non puoi prendere 4 milioni e mezzo di euro l'anno e sbagliare i gol fatti. Cioè, c'è una legge feroce, dice, perché gli italiani in Europa non ce la fanno? Perché poi diciamo, vabbè, era emozionato. Ma guarda, secondo ieri abbiamo fatto una lunga discussione con Pardo e con Renga sull'opportunità di calare Dzeko in questa partita e tutti erano d'accordo sul fatto che proprio per questo tipo di partita era meglio fare altre scelte. Mettere il Shaarawy e contropiede. Esattamente. O comunque il classico falso 9 a cui la Roma è ormai da tempo abituata. Io credo, e l'ho detto ieri, lo ripeto, non sia un mestiere facile fare il centravanti puro nella Roma. Così come non era un mestiere facile fare il centravanti puro dell'Inter l'anno scorso. Però. Sì, ma non è questo. La vostra teoria è giusta e tutti noi non sappiamo come è andato l'allenamento. Si dice anche Dzeko, il dottor James Ride, tutte le voci di Trigoria ci dicono che lui nel allenamento fa cose pazzesche e poi in campo da un anno e mezzo si blocca. Ma questo però è come dire, noi non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che se lui lo mette in campo e se Dzeko tocca 20 palloni, 3 sono determinanti e li sbaglia, questo è un fatto. Sì. No? Ti chiedo, ti ricordi qual è stata la peggior stagione di Ibrahimovic nella sua carriera? Sai che non me la ricordo. Quella in cui ha giocato nel Barcellona pur segnando una ventina di gol, è stata la peggior stagione della sua carriera. Ma perché? Perché giocare centravanti nel Barcellona non è l'ideale. Il Barcellona è abituato a giocare in un altro modo, la Roma è abituata a giocare in un'altra maniera. Con Garcia, con Spalletti sicuro. Ancora prima, e quindi fare il centravanti lì, puoi fare il parafulmine. È un incubo. Non è facile. Però le palle le ha toccate. Cioè, questo, se lui non avesse toccato una palla, questo sarebbe scientificamente incontestabile. Però, malgrado tutto, malgrado come dici tu, l'abitudine al falso noè, malgrado come dire, il problema di simmetria tattica, lui queste palle le ha toccate e le ha sbagliate. Borriello prende 4 palle e le mette dentro. Uno che abbiamo pagato per non giocare a Roma. È una cosa che bisognerebbe studiare. Pagato 6 milioni di euro per non giocare. Poi prendi il bidonone di Dzeko e lo paghi 4 milioni e mezzo per sbagliare 20 gol determinanti. Vogliamo dire Barcellona 7-1, il gol sbagliato al decimo minuto, ricordo. Dire Gollonzo di Palermo. Ricordo. C'è tutta una letteratura fantastica. Su questa hai ragione, però il turno si passa, dai, però il turno si passa, nonostante la sofferenza. Tanto si fatica. Poi c'è un'altra cosa che secondo me è questa paura, cioè che ormai attraversa un po' le squadre italiane, ma per la Roma è un morbo. Cioè la paura psicologica di non tenere la partita. E infatti ieri ho benedetto quando è entrato Paredes, che tutti vogliono vendere, e meno male che quello resiste lì, che ha fatto quei 3-4 tocchi in cui ha fatto ciò che gli altri non riuscivano a applicare, cioè gestire un po' la palla, fare due alleggerimenti, uno scambio, un triangolo. Cioè, siccome non è che penso che siamo dei geni noi e delle pippe loro, credo che ci sia un problema psicologico molto forte. Secondo te questa squadra è completa? Adesso facciamo finta che, la Roma passi il turno di Champions League, facciamo finta, senza stare a fare scongiuri, eccetera, eccetera. No. Con quei esiste soldi. Esiste l'agorafobia ed esiste l'europafobia. La Roma è la più grande malata di europafobia, però il mercato di Sabatini, anche con dei limiti, e sono quelli che abbiamo parlato tante volte, mi sembra un mercato molto intelligente. Sì. E ieri c'erano dei tratti in cui vedevi che la dorsale difensiva comunque c'era, che i nuovi acquisti comunque in pochi giorni si sono inseriti, Fazio è arrivato una settimana fa, Juan Jesus, che tutti i tifosi gelosi hanno detto mi pare che stia giocando decentemente. Cioè alla fine è una squadra fatta non con il supermercato della Juve, ma con il mercatino giudizioso, diciamo, senza sprechi, che può funzionare. Anzi, voglio dire una cosa che poi mi ammazzeranno: secondo me la Juve con l'ingaggio monster di Higuain avrà dei problemi tremendi di spogliatoio per la prima volta. Ma sai, alla Juventus sono anche bravi a risolverli, Luca, e tu lo sai. Bravi a risolverli, ma quando arrivi con quelli, dico Buffon come capitano simbolico e rappresentante, che hanno attraversato tutte le battaglie, tutti i campi di guerra, tutte le praterie d'Europa, sono stati nell'inferno della Serie B, sono risaliti, che stanno lì da 10 anni e dicono scusa, ma perché io devo guadagnare 3 milioni meno di buon Gonzalo? che se, non se stai c'è, parlando non di, c'è equilibrio, uno... di quegli equilibri, sì. No, ma qui i soldi sono simbolo, cioè finché tu riesci a tenere una coerenza in un monte ingaggi così complesso, la squadra tiene. Quando entra quella miccia nello spogliatoio, cioè, ma io che sono figlio di un dio minore che ti ho portato dalla Serie B e sono andato in Serie B quando potevo andarmene, quella è devastante. No, sono d'accordo, su questo sono d'accordo, così questa è la ragione per cui era impossibile, al di là della contropartita, tenere Pogba, perché se Pogba va allo United a guadagnare ingaggi in doppia cifra per quanto riguarda i milioni, certo, la Juventus non glieli può garantire e fa benissimo a non garantirglieli, quindi e fa benissimo a cedere Pogba. Ammazza lo spogliatoio, così come abbastanza... a Napoli avrebbero ammazzato lo spogliatoio dando i soldi che Higuain prende adesso alla Juventus. Però allora è strana questa politica, perché non l'hai fatto giustamente con Pogba e poi lo fai con Higuain, e non è detto che l'equilibrio tenga. Senti, sulla Roma invece a me è una cosa che convince pochissimo. Innanzitutto non avevo alcun dubbio sul fatto che De Rossi sarebbe stato il migliore in campo ieri sera, nemmeno prima della partita. Primo. Certe palle sghembe, certi primo. Colpi di parassinco col calzettone messo così, quello non so sul fondo a 10 minuti alla fine con la palla che va in angolo, perché lui è tornato dall'europeo come napolitano quando è andato al Quirinale, cioè è ricominciato da, era a fine carriera, adesso sembra un ragazzino. Veramente non ho mai visto De Rossi così l'anno scorso, l'ho visto all'europeo e lo vedo ora. Sì, però quindi basta guardarlo in faccia, lo capisci. Ma basta guardarlo negli occhi e lo capisci, De Rossi. Non è difficile da leggere. Come napolitano a Quirinale, fa pure rima. Bravissimo. Lo ribattezzi. Bravissimo, questa me la scrivo. Un'ultima cosa sulla Roma: a me invece convince pochissimo questa idea di Spalletti di fare il turnover sul portiere. Secondo me questa è una bestemmia calcistica. Io rimango convinto, e nessuno mi farà cambiare idea, sul fatto che l'unico ruolo in cui tu non puoi nemmeno ipotizzare, nemmeno ventilare il turnover, è quello del portiere a costo di farti del male. È verissimo, lì c'è un mistero, perché Allison da sempre si è capito che è bravo. Szczęsny era quasi andato via. Nello stessi giorni c'è qualcosa che a noi sfugge, in cui Szczęsny stava andando via, Allison stava giocando benissimo nelle partite di precampionato... Spalletti ha chiesto la riconferma di Szczęsny. Ora non posso pensare che lo abbia strappato a ben più, come dire, blasonate capitali europee per farlo stare in panchina. Quindi devo immaginare che questo Allison sta facendo cose pazzesche anche fuori dalla nostra vista, no? Però non si spiega. No, non si spiega. L'ultima cosa, accetti di partire ai nastri del campionato sulla stessa linea di Napoli, Juventus e Inter? Oppure secondo te la Roma vale qualcosa di più o di meno di queste? Allora, io ho l'idea che le milanesi siano più deboli, che il Napoli sia molto più forte. So che qualcuno sorriderà, ma mi sembra che abbia fatto un buon mercato. Che la Roma si sia quadrata rispetto all'inizio dell'anno scorso, dove aveva un sacco di buchi che poi ha colmato durante l'anno, adesso ha sanato. E l'Inter è un'incognita. Non è una squadra un po' sfasciata. Il Napoli è una squadra che ha un grande allenatore, ha fatto un ottimo mercato e mi sembra che, a parte la perdita di Higuain, abbia migliorato in tutti i settori, no? Sei d'accordo? Sì. Quindi metterei Roma e Napoli ancora una volta su un gradino più alto. La Juve come favorita, ma con questa incognita di questo tarlo che scava dentro... E le grandi annunciate, la Fiorentina non mi sembra più forte, anzi, nemmeno mi sembra un po' sfasciata dall'anno scorso. C'è rimasto del Vediamo l'Inter, perché secondo me, al di là del cambio di allenatore, tu hai ragione. Però un allenatore che arriva in 10 giorni, hai ragione, miracolo. Anche Allegri arriva in 10 giorni. No, questo non per dire che l'Inter sia competitiva per lo scudetto, non mi sognerei nemmeno, perché non sono pazzo. Però sul fatto che l'Inter comunque come organico possa competere in linea, sulla carta, e la carta è buona per avvolgere il pesce il giorno dopo, possa competere con Roma e Napoli, questo all'alba del campionato. Io amo molto Candreva, e poi amo molto i giocatori italiani, e credo che Candreva 20 milioni di euro valga 3 volte, perché è stato veramente uno degli esterni cursori più forti che abbiamo visto, sottovalutato forse, e quello è il vero acquisto del... Sono d'accordo. Grazie Luca. Ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto, Luca Telese, grazie davvero. 800 24 00 24, numero verde. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi voliamo immediatamente a Rio per la finale del K2 Carona. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Al volo Dario Riccio a Rio. Eccoci Carlo, niente da fare per Destino e Ripamonti nel K2 1000, finale che si è svolta pochi istanti fa. Ha vinto la Germania davanti alla Serbia e all'Australia, sesto posto per il nostro equipaggio, che pure era entrato in finale con il secondo tempo di qualificazione. Una finale conquistata a sorpresa dagli azzurri, che si sono ben difesi nell'acqua della Lagoa di Freitas, ma che in realtà non sono mai stati in gara per le medaglie. Adesso in acqua c'è Carlo Tacchini nel canoa K1 e vediamo un po' cosa farà. Anche qui però pronostico chiuso, vedo Tacchini nelle prime pagaiate già indietro e quindi difficilmente riuscirà a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Grazie Dario, ci sentiamo più tardi. A dopo, grazie a Dario Ricci. Torniamo al calcio, 800 24 00 24, tanto per tutto ciò che è olimpico vi teniamo aggiornati e ci sentiamo comunque dalle 18 alle 20 per tutti i convocati alle Olimpiadi. Tutti convocati invece sempre aperto per Emiliano Mondonico. Ciao Emiliano. Viva l'amor, per chi stava, viva l'amor che vien che va, viva l'amor per chi lo sa fa. Pronto? Eccovi. Pronto? Sei contento? No, c'ho la suoneria. ho preso un telefono di futura generazione e ogni tanto salta fuori questi intervalli. Che non so, non so neanche perché io non riesco a sentirlo. Dallo alla tua nipotina, vedrai che ti apre tutto il mondo. Ma è la mia nipotina, quando riceve le sue telefonate, a 3 anni ha già tutto il suo giro, e chiaramente anche lei ha così, ha Heidi, non so, altre canzoni che non riesco a capire perché sono abbastanza difficili, capisci, le canzoni dei bambini. E perciò niente, non so, spero che non vi dia fastidio, però... Ma ci mancherebbe altro. Ma penso che nel futuro abbia molto successo questi intervalli, che secondo me sono la solita scusa per quelli che fanno pubblicità per guadagnare dei soldi. Com'è lì da te in questi giorni? Qui da me in questi giorni, stanotte è venuto un temporale, a Ferragosto abbiamo mangiato come no, come i maiali, no, perché abbiamo mangiato il salame, come faccio a dire che abbiamo mangiato come dei maiali? Diciamo abbiamo mangiato come a Ferragosto, abbiamo preso verso le 8:30 la magnesia, perché non so se voi sapete che c'è la magnesia che aiuta a mandar giù e niente. Diciamo ho avuto una notte un po' dissenterica, però per il resto abbastanza bene. Diciamo che mi sono liberato di quello che avevo ingoiato. Grande Emiliano. Senti, io discutevo con Telese prima e i tifosi romanisti saranno d'accordo. Stanno trovando in Dzeko il capo espiatorio. A me sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo giocatore. Dicevo che fare il centravanti nella Roma non è un mestiere facile, così come per anni non è stato un mestiere facile fare il centravanti nell'Inter, così come non lo è tuttora, al di là di quel fenomeno di Suarez, fare il centravanti nel Barcellona, tanto che Ibrahimovic l'unica stagione non da mostro qual è la giocata nel Barcellona. La Roma non è una squadra costruita per avere un centravanti e adesso ogni volta che c'è qualcuno da incolpare, eccolo lì, Edin Dzeko. Scusa, la Roma ha fatto 20 minuti, 25 di buon calcio, come è nelle sue qualità e attitudini. Poi dopo passato in vantaggio, poi c'è stata questa espulsione. E questa espulsione cosa ha portato? Al cambio di Perotti al campo di chi è la... dell'altro attaccante. Sì. E perciò è chiaro che la Roma ha rinunciato a due attaccanti e ha tenuto solo Dzeko per il resto della partita, per difendere nei secondi 90 minuti. Cioè, se tu cambi due attaccanti perché sei un uomo in meno, è chiaro che vuoi salvaguardare il risultato, e penso che questo sia la grande ipotesi dell'allenatore che lo ha premiato. Però da qui andare a dire che la colpa è di Dzeko, alta momento. Diciamo che se tu volevi giocare all'attacco, tiravi fuori, era uscito un difensore, rimanevi con quelli, passavi a un 4-4-1 con sugli esterni Perotti e come si chiama l'altro attaccante che Salah. Mi sfugge? Salah. Come mai mi sfugge Salah? Non lo so. Forse ho mangiato troppo salato. Sarà che non ti piace. Magari non ti piace tanto. Poi ieri sera ho mangiato una pasta asciutta solo di verdure, proprio l'ho lasciata lì. Ti dico, gli ho messo su un vasetto di peperoncino, ma niente da fare. Non so come fanno a mangiare senza salato. Non capisco nemmeno io. Questo non lo capisco nemmeno perché io. Perché bisogna salare, dai. Sì, bisogna salare per forza. Ecco. Perché dopo tiri fuori. Se tiri fuori il sale, basta. C'è tutto insipido. C'è tutto. Cioè, non c'è più gusto. Non c'è più gusto. E perciò, ecco, penso che la Roma di ieri sera è questa. Il risultato penso vada bene. Attenzione al ritorno, perché questo secondo tempo così in difficoltà non mi ha tranquillizzato. E perciò io direi di stare molto molto attenti alla gara di ritorno, perché è chiaro che non è una gara che finisce 0-0. Sì. Senti Emiliano, dammi ragione almeno una volta. Io continuo a sostenerlo, ne parlavo anche prima, il fatto che sia impossibile, sia una sorta di di bestemmia calcistica quello del turnover dei portieri. Cioè l'idea, l'hanno fatto moltissimi grandi allenatori, da Mourinho ad Ancelotti a Real Madrid, adesso ci sta provando Spalletti eccetera, però il portiere è l'unico ruolo in cui ci deve essere un numero 1 e un numero 12, perché altrimenti rischi di crearti dei casini in casa tua che non sono necessari. Perfettamente d'accordo. Ti dirò che nella scelta del portiere è la scelta determinante. Quando tu compri un portiere devi dire chiaramente, forse è l'unico giocatore esatto, puoi garantire è l'essere titolare o l'essere riserva. Tutti gli altri gli puoi dire anche delle cavolate, perché dopo gli dici ma io sì, puntavo su di te, però l'altro è più in forma di te, te mi sembri un po' giù, te mi sembri qui, se mi sembri su. Il portiere devi dirgli: amico, tu sei il numero 1 e tu sei il numero 12. Non rompete le balle, se vuoi è così, se non vuoi amici come prima. Certo. Ecco perché sono d'accordissimo con te che non puoi giocare a nasconderti con il portiere. Perché il ruolo del portiere è il trionfo dell'incertezza. Se tu non sei sicuro rischi di crearti dei casini. Assolutamente. Se tu perdi un attimo questa grande autostima, o se hai un qualcosa che non ti eleva proprio a massimo esponente, il portiere è nella merda. Se nella merda il portiere vincono sempre gli altri. Sì, bravissimo. Altro argomento, Juventus. C'è chi dice che lo stipendio di Higuain dentro quello spogliatoio possa creare dei casini. Tu credi che sia così? Io penso, ho letto in questo momento tanti che dicono ma non è vero che sia qui, che sia là, non è vero che sia la più forte, potrebbe anche perdere. Sì, l'unica che può perdere questo campionato è la Juventus, è l'unica squadra che può perderlo. Può perderlo se dimenticandosi di com'è la Juve in questo momento, che sicuramente è una Juve di grande quantità, è una Juve che non molla mai, è una Juve che ti azzanna, è una Juve che gioca con catenaccio, è una Juve che chiaramente non molla mai. Se pensi che basti Pjanic o basti Higuain per trasformare questo non mollare mai, è finita. La Juve deve essere la Juve che non molla mai, con in più questi giocatori che sono in primi a imparare dal nocciolo duro della questione cosa vuol dire giocare e non mollare mai, cosa vuol dire considerare la vittoria una normalità e non un'eccellenza. Certo. E perciò ecco, io penso che in questo momento, al di là del, dello stipendio di Higuain, al di là di tutto il resto, perché c'è della gente che chiaramente ha dimostrato non solo nella Juve di essere all'altezza. Ecco, non dimentichiamoci che la Juve è quella che abbiamo visto, non quella che vedremo. Quella che vedremo è quello che conterà un passo di più nel mettere in evidenza certe qualità, però sempre sul finale della quantità. Se questi che fanno qualità si affidano solo alla qualità, è finita perché la Juve di caratteristica ha la quantità, sì, certo, la qualità, certo, ma nella quantità, sì, cioè il non mollare mai, la vittoria. Ecco perché in questo momento, mentre altre squadre per vincere il campionato devono sperare nel cedimento della Juve, la Juve può solo farsi male da sola. Certamente, devono stare lì sotto la finestra e sperare, aspettare e sperare che la Juve butti giù il bambino per prenderlo al volo. Ma non si credo... buttino giù loro, che la gente dei bambini. È loro che uno a uno si butta giù dalla finestra e ciao, ah, che belli questi, che bei tuffi che fanno. Tutti mi dicono bionda, ma bionda io non sono. Non so, l'ho sentito adesso sottofondo. Sì, sempre sul telefonino. Penso sia ancora una canzone. Però questi mi fanno pagare un sacco di abbonamento per darmi queste canzoni. Tu stai parlando di cose serie e ti salta fuori una canzone. Emiliano, a proposito di serietà, l'Inter dopo questa estate folle, sai dirmi quanto possa valere con Mancini che va via, che è odiato dal 90% dei tifosi dell'Inter? Io non capisco bene perché, tutto sommato gli ha fatto vincere qualcosa in passato, e un allenatore che è bravo a farti comprare, a far comprare giocatori alla tua squadra, io in linea di massima lo apprezzerei, però esautorato totalmente. Poi è arrivato Toier che non è più presidente e ha detto: adesso che non sono più presidente decido io, mando via Mancini e prendo De Boer. A me l'Inter sembrava una squadra competitiva alla pari di Roma e Napoli, la metterei sulla stessa linea dietro la Juventus, adesso però non lo so. L'Inter ha fatto dei buoni acquisti. Appunto. L'Inter in questo momento ha rivolto tutte le sue magagne addosso a Mancini. I giocatori in questo momento hanno salvato un po' la faccia. Però questo può essere e deve essere importante. Cioè, perché il fatto di Mancini se dura per tutto l'anno e perciò vengono i risultati e perciò i giocatori dimostrano che chiaramente c'era qualcosa che non andava, siamo tutti fratelli. Ma se per caso, al di là delle inamicizie sul modo di Mancini di condurre la squadra, i risultati non vengono, e allora hai presente quei casini degli anni 70, sì, 60? Sì. Ecco, diventa un casino con 16-17 camere. Mondo per chiudere, il Toro a me piace. Mihalovic ha l'istinto proprio dell'allenatore del Toro. Mihalovic, sì, ha cambiato totalmente filosofia, tipologia di gioco. Penso che anche lì ci sia molta roba da mettere sul fuoco. Perciò è chiaro che il Toro è una cosa che seguiremo con, come sempre, con grandissima simpatia. Sai, perché adesso Mihalovic ci dice: io punto all'Europa. Prima puntiamo alla salvezza, puntiamo a che cavolo ne so, adesso è arrivato uno che dice punto all'Europa. Cavoli, alle averne, capisci? Sì, chi si gioca la faccia, chi si gioca veramente il suo modo di essere. Penso che sia quello che il toro aveva bisogno, non gente non che dice profilo, è importante salvarsi, ragione. Ricordiamoci dove eravamo 7 anni fa, perché ho sentito anche al Chelsea che sembra che sia 7 anni che non ne vince più neanche una. e adesso ricordiamoci come eravamo, ricordiamoci dove eravamo, ricordiamoci e viviamo sui ricordi. Arriva questo e dice: puntiamo all'Europa. Ecco quello che aveva bisogno la gente granata. Sono e d'accordo. Perciò tutti vicino a questo allenatore e a questa Europa che sarebbe ora, che la gente del Toro potrebbe riassaporarla senza sperare che altre squadre saltino in alto. Bravo, bravo. Grazie Emiliano, ti abbraccio forte. Un abbraccio anche a voi, e tutti mi dicono bionda, ma bionda io non sono. Grandissimo Mondo! Lelio da Lucca, poi ci fermiamo per la borsa. D'accordo, tutti d'accordo? Lelio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, saluti, buona trasmissione. Grande mitico Mondonico, sì, mio idolo. Senta, volevo sapere, siccome non ne sento più parlare, che fine ha fatto la moviola in campo, se sarà applicata quest'anno? E a questo punto punterei anche su Trine e Sassuolo per la vittoria del campionato, dato che quando la prima volta che scherziamo. Ci fu la moviola, chiaramente. Allora, moviola bene. In campo, siamo in fase di preparazione e sperimentazione. Puntare su Torino e Sassuolo per la vittoria del campionato non scherziamo, nemmeno con mille moviole in campo, perché alla fine contano i valori calcistici e il resto è un po' forzato e un po' demagogico. Io continuo a pensare che moviola o non moviola, la Juventus sia la squadra in questo momento sia la squadra più attrezzata. Dietro io continuo a vedere sulla stessa linea che ne dica Luca Telese, in parte anche Emiliano Mondonico, il Napoli, la Roma e l'Inter, ancora da leggere quella di De Boer. Vengono spese belle parole, ma le belle parole tra tre giorni cominceranno a contare zero e cominceranno a contare i fatti. Poi non penso proprio che la moviola in campo possa essere determinare rivoluzioni di questo tipo, ma non solo in Italia, ma anche negli altri paesi in cui esistono squadre egemoni e politicamente molto forti, molto potenti. Cioè non credo che la moviola in campo potrebbe portare via il titolo al Barcellona, al Real Madrid o volendo all'Atletico Madrid a vantaggio del Saragozza di turno. Quindi questo non lo credo. 800240024, numero verde, borsa, torniamo. Tra poco, nuove notizie. A più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ragazzi, diamo un'occhiata al mercato, se vi va. 800240024 per i vostri interventi, per far sentire la vostra voce, cosa a cui tengo molto. Messaggi al 349-238-6666, sms e whatsapp. Diamo un'occhiata al mercato a partire dalle parole di Marotta, che insomma spiega cosa servirebbe ancora alla Juventus. Manca, come sapete, un centrocampista. Non è facile intervenire in questo ruolo perché il livello qualitativo della Juventus anche in questo settore è molto alto. Non è facile trovare dei giocatori che si possano inserire in questo contesto, per cui la cernita è veramente severa. Non nascondiamo che l'esperienza con Cuadrado è stata estremamente positiva, è un giocatore che è molto gradito tra di noi, nella squadra. E quindi se si apre lo spiraglio di poter definire un'operazione col Chelsea, saremo ben contenti e onorati di averlo ancora con noi. Questo Marotta, dunque, serve un centrocampista ma non è facile, però il tempo stringe. Cuadrado, proviamo a riprenderlo. Nicolò Ceccarini da Sport Medias, ciao. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Nicolò, mi sembra una situazione non così diversa da quella dell'anno scorso, quando la Juve cercava per accontentare Allegri, un trequartista. Il tempo passava, si parlò di Drexler a lungo, di altri giocatori, di Mkhitaryan, eccetera, eccetera. Poi alla fine arrivò il ripiego Hernanes. Anche in questo caso un centrocampista, dice Marotta, di livello serve alla Juventus, ma anche qui il tempo comincia a stringere. Sì, il tempo comincia a stringere, però l'anno scorso Pogba c'era e quindi comunque c'era un valore enorme in quel centrocampo. Adesso non c'è più Pogba, per cui non credo che la Juventus riuscirà o quantomeno avrà il problema di andare a sostituirlo, non si ridurrà agli ultimi giorni di mercato. Io sono convinto che la Juve in testa abbia delle idee molto chiare. La prima scelta, quantomeno il giocatore che più di ogni altro piace, resta Matic, che in questo momento però il Chelsea non vuol dar via e comunque ha una valutazione superiore a 40 milioni di euro. Io sono convinto che Matuidi resti un'altra scelta calda da tenere presente per la Juventus, anche se al momento insomma loro non lo vogliono dare a Paris Saint-Germain e allo stesso tempo chiedono sui 30-35 milioni di euro e la Juve invece vorrebbe spendere molto meno. E poi secondo me bisogna stare attenti anche agli ultimi giorni di mercato, se magari può capitare un'occasione. Io sono convinto che la Juve possa fare due centrocampisti, diciamo uno di grido internazionale, l'altro di prospettiva. E allora qui nell'altro di prospettiva io credo che si debba inserire per esempio un giocatore come Tielemans dell'Anderlecht, sì, oppure anche magari Paredes della Roma, che può essere un altro giocatore con questo, DNA, cioè un DNA di un calciatore giovane, promettente e che possa diventare fortissimo a breve. E per Cuadrado invece tu vedi un ritorno al dopo il, insomma, si è parlato di Cuadrado al Milan, si è parlato di Cuadrado in altre squadre, vedi un ritorno prossimo alla Juventus? È un giocatore che piace molto lì, guarda, anche dal punto di vista caratteriale. Sì, sono d'accordo perché io credo che la Juve farà tutto il possibile per prendere Cuadrado, proprio insomma in queste ore so che c'è stato un altro vertice, un altro incontro con il suo agente proprio per capire, per vedere se ci sono dei margini. È chiaro che la Juventus l'operazione la vuol fare, un'operazione con il prestito oneroso, magari con un prestito oneroso più alto rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, che era 1,5 milioni di euro. Non so se poi ci sarà di mezzo un diritto di riscatto o un obbligo di riscatto, però la Juventus è pronta a fare l'operazione. Cuadrado vuol tornare alla Juventus, tutto dipende da Conte, tutto dipende da Chelsea. Appena c'è l'apertura, secondo me questa operazione si può fare, però dipende da Chelsea, non dipende dalla Juve, che comunque già fatto sapere a Chelsea che lo vuole riprendere il giocatore, come il giocatore vuol tornare. Sì, quindi mi sembra che le parti siano abbastanza d'accordo. Allora, Nicolò Ceccarini, ti faccio una domanda che faccio anche a tutti gli ascoltatori. 800 24 00 24, quasi un annuncio. Aiutami a trovare una squadra a Balotelli, perché Zenga ha detto vieni ai Wolves, la Lazio da due anni si parla della Lazio, forse potrebbe volerlo riprendere, si è parlato del Chievo, si è parlato del Sassuolo che poi è andato su Matri. Intanto Balotelli è ancora tra un po' si allena con i disoccupati, insomma. La verità è questa, che non è facile. Insomma, il presidente Campedelli mi sembrava abbastanza determinato, no, nel poter fare questa operazione con l'aiuto del Liverpool sull'ingaggio. Poi la cosa si è un po' fermata. Il Sassuolo era un'idea più che altro, perché hanno sempre avuto in testa di prendere Alessandro Matri, e poi ora se il Sassuolo fa un'altra operazione va a prendere un giocatore come caratteristiche alla Sansone, no, che ha ceduto, quindi non credo che abbia più interesse a prendere un profilo come Balotelli. E sinceramente, guarda, solo Raiola adesso può tirare fuori dal cilindro la soluzione giusta. Sono convinto che alla fine lo farà, però tu mi hai chiesto un aiuto e anch'io chiedo un aiuto agli ascoltatori, perché praticamente diventa difficile anche per me. Allora facciamo l'appello, ragazzi, aiutateci a trovare una squadra a Balotelli. 800 24 00 24, se avete quantomeno un'idea, sì, esatto, magari che non sia la Cina, il Giappone, questa, cioè la Cina, la... l'India, questi territori di estremo confine, perché sarebbe veramente anche troppo triste. Aiutami invece a trovare una squadra Zaza, perché col Wolfsburg è finita, lui è andato là a vedere la città, vediamo se mi piace o non mi piace, poi Wolfsburg ha cambiato idea, alla Juve è chiaramente in esubero. Anche lì sarebbe un peccato se un talento italiano, un giocatore della nazionale e un giocatore che secondo me è forte, motivato e merita del campo, facesse la riserva della riserva alla Juventus. No, ma infatti, guarda, il fatto che sia saltata questa operazione con il Wolfsburg non significa che lui non sia più sul mercato. Io ho la certezza che Zaza è ancora sul mercato. Ha sempre preferito l'Italia all'estero, Zaza, questo va detto, però bloccandosi la strada Milan in virtù del fatto che è rimasto Bacca, bloccandosi per il momento anche la storia della Roma, perché comunque Dzeko resta, non ci sono in questo momento presupposti per una sua partenza, è chiaro che le possibilità in Italia cominciano a essere poche per lui. Io continuo ad avere una mia idea, che De Laurentiis un'altra operazione in attacco la vorrebbe fare, sfumato quasi Icardi, perché mi sembra che ormai a questo punto sia quasi impossibile, anche se nel mercato di impossibile non c'è mai nulla, e sfumate anche altre ipotesi. Questa potrebbe essere un'idea, anche se l'idea, diciamo, Zaza per il Napoli va a combattere, tra virgolette, o quantomeno va a scontrarsi con quello che è accaduto con Higuain, cioè diventa anche difficile, no, andare a trattare adesso con la Juventus dopo che la Juventus ha pagato la clausola rescissoria, sì, per Gonzalo Higuain. Però secondo me questa è un'idea che a mio avviso non va trascurata ancora, perché sì, comunque ci potrebbe stare. Sì, detto questo bisogna vedere cosa ne pensa Gabbiadini, che ha i galloni di titolare su braccio finalmente, e vale per lui lo stesso discorso fatto per Zaza, cioè certo, è un eccellente talento italiano che giustamente chiede campo e sta ripagando, ha ripagato l'anno scorso, sebbene a rate, quando gli è stato concesso spazio e tempo. Gabbiadini merita di essere centravanti titolare di questo Napoli. Se vai a prendere anche Zaza dopo Milik, a quel punto si apre una concorrenza che non so quanto possa essere propizia. Ma io sono d'accordo con te perché Gabbiadini ha tutto, cioè è completo, è uno che segna da fuori area, dentro l'area di rigore, batte le punizioni, i calci di rigore, è uno che può segnare sotto misura, ha qualità, insomma è completo, per cui guarda, sposi completamente la mia tesi, la mia teoria. Io sono perché lui resti a Napoli, e però ti dico anche questo: se rimarrà a Napoli alle 23.01 del 31 di agosto, il Napoli però gli rinnoverà anche il contratto fino al 2020, questo te lo do per certo. Allora Nicolò, io intanto ho dei suggerimenti su Balotelli, se vuoi te li giro. Bene. Allora, Balotelli potrebbe giocare al Crotone secondo Ulisse, oppure un altro ascoltatore scrive Zaza alla Lazio per Biglia e Balotelli al Palermo. Oppure Balotelli assistente alla regia di tutti i convocati, va bene, qui ci serve sempre personale. Giulio da Taranto, io stasera ho calcetto, siamo in quattro, ci serve un quinto. Balotelli, se paga la sua quota, può giocare con noi, quindi qualche idea ce l'abbiamo. Io direi che il Crotone mi sembra quella più brillante, però sinceramente ti devo dire la verità che, e tra l'altro ci avevano anche pensato al Crotone, c'era stata la battuta proprio del presidente Vrenna qualche tempo fa in tempi non sospetti, se ti ricordi, quando disse se Mario Balotelli vuole rimettersi in gioco, noi più che volentieri lo prendiamo a braccia aperte. Però sai, lì diventa anche una decisione al di là del fatto che comunque c'è il problema dell'ingaggio, che bisogna lavorare e trovare la soluzione, però dipende molto anche dal giocatore, perché tanto poi è quello che uno vuol fare, non che fa la differenza. Certo, un'ultima cosa, ma si parla di questa offerta del Chelsea, 70 milioni di euro per Koulibaly. Sì. Allora, 70 milioni di euro per Koulibaly, fortissimo. Guarda, 70 milioni, ma subito. Sì, oggi il problema stesso è che non sono 70, secondo me sono 50, anzi, non secondo me, sono 55. Sono 50, l'offerta 55, scritta, l'offerta scritta che è arrivata sul tavolo del Napoli è di 55 milioni di euro. Credo, se vuoi il mio pensiero, che Koulibaly sia veramente molto attratto dall'ipotesi di andare al Chelsea. Per me nel suo futuro ci sarà il Chelsea, anche se fino al 31 di agosto il Napoli farà le barricate per trattenere il giocatore, perché ne ha troppo bisogno. Però un domani, se tu mi fai questa domanda, magari tra un anno, probabilmente ti dico guarda, che tra un anno andrà al Chelsea. Ecco, ma io più che fare le barricate cercherei un sostituto con quei soldi. Ma loro stanno già lavorando sul difensore, tant'è che a prescindere da Koulibaly, che comunque per loro averlo è chiaramente un valore aggiunto, e Napoli infatti non lo vuol cedere in questa sessione, farà tutto il possibile per non cederlo, perché l'obiettivo è quello. Però stavano cercando anche un altro difensore centrale, e Maximovic era il giocatore che loro avevano scelto e sarebbero stati disposti anche a venire incontro all'esigenza del Toro, che voleva 25 milioni di euro. Solo che poi i rapporti tra Cairo e De Laurentiis non sono idilliaci, e quindi se Maximovic esce verso l'estero, almeno a oggi, mentre sto parlando, la linea è questa. Allora su cui stanno lavorando forte su Criscito, che comunque è un'altra ipotesi che possono avere, perché è un giocatore duttile che può fare sia difensore centrale che laterale. Lo Zenit, Lucescu ha fatto sapere che se Criscito gli chiederà la cessione non si opporrà, però allo stesso tempo lo Zenit è una società ricca e non regala i suoi giocatori. Certo. E quindi il problema è soddisfare le richieste dello Zenit. Alternativa, Caceres svincolato al costo zero. Che ha uno stipendio molto alto però. Grazie Nicolò. Grazie a te, buona giornata. Piacere, a tutti. Piacere, Nicolò Ceccherini, Sport Mediaset. Quindi abbiamo aperto un po' di fronti di mercato, se volete li approfondiamo insieme. 800 24 00 24. Enrico e Nicola, state lì, c'è il traffico, arrivo subito. Secondo me non capisci di calcio. Tutti convocati. Tutti convocati. Sentiamo se Enrico e Nicola, ascoltatori in linea all'800 24 00 24, hanno qualche idea per collocare Balotelli. Enrico? Però magari sì. Voglio parlare d'altro, di quello che vogliono, possono parlare di quello che vogliono, come sempre. Dica sì. Enrico. Buongiorno. Buongiorno. Sono autista, sto camminando per strada, la linea va e viene. Comunque io vorrei dire Balotelli e la Lazio non dispiacerebbe, io sono laziale. Sì. Però parlate molto poco della Lazio, nel senso sì che se abbiamo un presidente che la tiene nascosta, sta squadra nazionale, di mortacci. Scusi, no. Porca puttana. Che è successo? Niente, stava a camminare, uno mi ha chiuso la strada con un'automobile. Ah, ma niente di grave, no? No, per salvare quel miracolo ha perso la bicicletta. Ah, possiamo fare qualcosa? Intervento in diretta, No. Possiamo anche fare un intervento d'urgenza in diretta, io le mando qualcuno se ha bisogno. No. Tutto ok. Volevo sapere solo questo, insomma, il mercato della Lazio, che stanno a fare? Se solo Tito compra qualcuno e magari venisse Balotelli, io sarei contento. Sì, ma io credo che potrebbe essere anche una buona idea, a parte che la Lazio secondo me continua ad essere una squadra estremamente credibile, costruita secondo le linee che si conoscono, continua a non comprendere la avversione della stragrande maggioranza del popolo laziale nei confronti di Lotito. Lazio sta insistendo per Cerci, certo ha venduto Candreva e lo ha venduto molto bene. Rimane comunque secondo me una squadra a cui servirebbe un attaccante di livello, ma comunque una squadra che può serenamente ambire a posizioni da Europa, esattamente come il Toro dichiaratamente lanciato da Mihajlovic. Rimane secondo me in quella fascia, è una squadra, una candidata molto credibile. Nicola, provincia di Napoli, buongiorno. Sì, salve, Nicola da Ischia. Come vedi per la È beato lei. Per lo spazio. È beato lei. Beato lei che sta a Ischia. Ma sicuramente metterò i 10 milioni di tifosi del Napoli contro. Balotelli a Napoli, il miglior terapista sarebbe Mister Sarri. Questa è la mia, che volevo chiedere a Nicola Ceccarini, a lei dottor Gente. Mica male l'idea. Per la trasmissione. Grazie Nicola, e complimenti per la location invece a lei, perché a Ischia vorrei esserci io con tutto il cuore. Beh, questa sarebbe un'ipotesi affascinante, non tanto Balotelli a Napoli quanto Balotelli nelle mani di Sarri, perché, ripeto, ci sono squadre, ne abbiamo parlato a lungo prima, in cui giocare nel ruolo di prima punta, di centravanti, è tremendamente difficile. Ci sono squadre in cui invece tutto funziona in maniera magnifica per chi ha ruolo di finalizzatore, e sarebbe davvero interessante vedere Balotelli lavorare con un allenatore come Maurizio Sarri. Non so se Maurizio Sarri sia d'accordo su questo, non ho argomenti per dire che potrebbe essere d'accordo su questo, e se posso dire la mia mi permetto anche pure di dubitarne, però sarebbe un'ipotesi molto affascinante. Allora, fatemi sentire, questa è l'estate delle Olimpiadi dell'amore, delle Olimpiadi dell'outing, delle Olimpiadi, di un sacco di cose, ma anche dello sport molto mediatico e molto cantato. Tutti i calciatori si sono messi a cantare, ieri abbiamo sentito Evra, oggi sentiamo chi? Ragazzi, datemi un giudice di X Factor. Magari Guido Vacciago di Tutto Sport può fare il giudice X Factor. Questo è Dani Alves. Non male. Sì. Allora, voce ok, ho da ridire sull'accordatura della chitarra e sulla pennata. Faccio un giudizio molto tecnico, ma da chitarrista posso permettermelo. Grande Guido. Però non male, insomma, il ritmo c'è, sulla pennata della chitarra possiamo discutere. La voce non è malissimo. Evra invece come l'hai visto? Come l'hai sentito? Ma Evra l'ho visto bene anche lui, ma quello che mi stupisce è la capacità mediatica di Dani Alves. Dani Alves porta nella Serie A un briciolo di NBA, perché è un giocatore che sarebbe benissimo nella NBA, avesse soltanto quei 40 centimetri in più, ma voglio dire, l'atteggiamento e l'attitudine da giocatore estremamente mediatico. Sono curioso di vedere il suo impatto con, diciamo, l'atteggiamento più sabaudo che di solito ha la Juventus, ma io credo che questo sia un passo verso il futuro, cioè quando si vogliono creare squadre come quelle che ha creato la Juventus si fanno anche per cercare di guadagnare qualche soldino in più dagli sponsor, e gli sponsor sono contenti se Dani Alves canta. Certo, sono contenti se Dani Alves canta, ma poi ormai è un fenomeno virale, come dicono gli studiosi di social. Ogni giorno vedi un calciatore, uno sportivo che si pianta il telefonino in faccia, si fa un selfie mentre canta o fa qualunque altra cosa, quindi tra un po' cesserà anche di essere una moda o una novità. Non finirà mai di essere invece un grande classico Juventus A, Juventus B a Villar Perosa. Kermes che esiste da quando avevamo tutti i pantaloni molto corti. Ma allora, personalmente non ero neanche nato, perché le prime partite a Villar Perosa risalgono ai primi anni 60, quindi voglio dire, come tradizione è una tradizione che ha superato il mezzo secolo e ultimamente si è un po' rinverdita, forse perché c'è un Agnelli alla presidenza e questo ha fatto sì che in qualche modo l'allure di quello che significa Villar Perosa, cioè il paese natale della famiglia, assuma un aspetto ancora più romantico, se vogliamo. E poi è uno dei rari casi in cui i tifosi possono toccare i campioni in un calcio sempre più sterilizzato, esatto, in cui appunto il massimo contatto che può avere il tifoso è quello del social network di cui parlavamo prima. Finalmente ieri, per carità, migliaia di telefonini, ma anche tanti taccuini pronti a ricevere l'autografo, ed è stata una cosa che se non altro riporta un po' di realtà, un po' di concretezza e meno virtualità a tutto l'ambaradan. Infatti la partita non ha nessun significato, viene interrotta dall'invasione di campo che è diventata una tradizione nella tradizione. Io credo che la cosa più importante di Villar sia questo bagno di folla, faticoso, sudatissimo, ma estremamente concreto e vero, che la squadra fa con i tifosi, e credo che gli dia anche un po' di carica. Sì, penso anch'io, ma Higuain ha buttato giù qualche etto, qualche mattoncino? Sì, sì, sì, sì. Guarda, io ero a Londra per la partita contro il Watford di domenica, cos'era, domenica 7. Domenica scorsa. E l'ho visto, vabbè, dalle tribune da lontano, ma poi dopo, facendo l'intervista a Dybala nella zona mista, lui è passato, ha scherzato un po' con Dybala, quindi l'abbiamo visto da vicino e la polo era veramente ingenerosamente gonfiata. E ieri, invece, visto altrettanto da vicino, perché la partita di Villar si vede, il privilegio dei privilegi, da bordo campo, anche noi giornalisti, l'ho visto a due passi e mi è sembrata che la maglietta fosse scendesse molto più dritta, le righe anche mi sembravano piuttosto parallele. E quindi direi che sì, poi a sentire, adesso noi scherziamo, ma a sentire i dottori ha già perso 4-5 chili e mi è sembrato anche già più tonico, ma io non sono preoccupato, voglio dire, i tifosi del Napoli ci potranno confermare che tutti gli anni era così, insomma, ma sì, che lui dalle vacanze torna così. Ma ti dirò, mi fa quasi più paura il giocatore che arriva da 3-4 settimane di vacanza tirato come se avesse fatto 15 giorni di ritiro, perché mi viene da chiedere, ma cosa hai fatto durante le vacanze? Cioè, Higuain mi ha proprio dato l'idea di uno che abbia staccato, ecco, che mentalmente si sia rigenerato e adesso sia pronto per la nuova avventura, voglio dire, viva Dio. Per carità, si tratta di professionisti, dovrebbero stare attenti, ma Higuain ha una conformazione fisica, è grosso Higuain, non è uno piccolo, certo. Poi qualche chilo in più su di lui si vede magari di più. Parlavi anche di giocatori NBA, è un grande classico anche per le superstar NBA presentarsi dopo due mesi di inattività con i rotolini. Non sto parlando solo di Shaquille O'Neal ai tempi, ma questo è un grande classico. Poi sono professionisti, fanno quello di mestiere, lo fanno tutti i giorni. Guido, grazie, ci sentiamo presto, buon divertimento. Grazie a voi. Ciao Guido Vaciago. Allora, chiudiamo questa puntata, la prima tranche di Tutti Convocati, per poi trasferirci alle Olimpiadi alle 18. Corrino, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. A lei, dica. Allora, io sono un simpatizzante del Milan. Sì. Vorrei criticare quei tifosi, che criticano la campagna acquisti, scrivono, offendono quelli del Milan adesso, ma anche tutte le squadre. È gente che non prende fuori Mussoldo e sono quelli che fanno casino di più durante l'anno, e quindi io vorrei dirgli gente che di avere pazienza, che questi cinesi hanno comprato, non hanno comprato per fatti di, hanno preso per evidentemente di fare un budget. I cinesi fanno affari, quindi è chiaro che gli affari in perdita non gli interessano. È altrettanto evidente che in questa sessione di mercato, ma per le questioni tecniche che sappiamo benissimo relative alla cessione del Milan, non era possibile utilizzare quei denari, tant'è. È chiaro che la campagna di acquisti del Milan quest'anno non è stata scintillante, è altrettanto evidente che non si tratta di critiche, ma si tratta di una oggettiva realtà. La Montella sta lavorando molto bene, ma questa squadra non è competitiva a livello di almeno 4 se non 5 che la precedono. Allora, aggiorniamo la seduta a questa sera, tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. Io intanto ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori e Alvise Falzoni in redazione e vi do appuntamento a più tardi. Viva l'amor, viva l'amor, viva l'amor per chi sa va, viva l'amor che viene che va, viva l'amor per chi lo sa fa.